La mamma era, le piaceva molto Castelbeseno, la mamma era molto romantica e le piaceva moltissimo. Però anche Castelbeseno ai miei tempi era un mucchio di rovine, non era restaurato come adesso ed era anche pericoloso andarci, però andavamo a fare delle passeggiate su dal Maso Trappa, andavamo su sempre fra gli sgrebeni, pericoloso, i sassi, allora no, tornate indietro, tornate indietro, attenti qua, attenti là, però era una delle nostre gite. Quando ero ragazzo, bambino, perciò dagli anni 30 agli anni 40, spesso si facevano delle feste campestri e la festa si faceva a Castelbeseno, con l'orchestra, si ballava all'aperto, era un po' come, non so, voglio dire, la festa campestre, insomma, ecco. Era una festa come un'altra, no? Dove si ballava, c'era l'orchestra, addirittura facevano anche il vaso della fortuna o cose del genere. C'era tutto Caliano che saliva. Una volta le feste campestri erano molto, molto di moda, non c'era altro, diciamo.